Dark Apple pure Parex Baby. Porto a spasso il metallo come un carro attrezzi. Sto con Dark Tony F e Baby c'è reserve. Intorno alla tua tipa branco di iene. Se non fotte frega un cazzo torno a casa a piedi. Do a tira fuori dal garage in Mercedes. Sei di qui, triple A, triple 7. Vuoi venire a fare il G, passo in piazzetta. Una guardia non mi becca, sono troppo svelto. Intercettazioni, modalità aerea. Faccio un tiro di cus, mi fa sentire bene. È la click di Rione, Monti, Roma, centro. Continui a fissarmi, divento scemo. Glock 9 manda, il tuo culo dritto sul cemento. Botta di catch, succo di zanzero. Se non conosci più è DPG, triple 7. E stiamo fuori per il cash. Fuori per la strada con il bomber, non clash. Lavoro di squadra, torna alla bodega. Tu non vuoi ricevere un buco in testa. Mi serve della nuova merda. Gucci per difendere tutta quella merda. Becco uno di sti rapper e poi faccio merenda. Tiro fuori i bacchi bianchi dai miei cargo neri. Parli della dal polo ci stai sotto baby. Siamo alti sullo spazio buchi nel cervello. Ti vedo con infame zitto buco in pezzo. Non giocare con la dark, piscia a letto. Fumo oggi, custodio il prescelto. Balenciaga nera e piedi, dark dentro. T'ha scavato già la forza, sei morto, sei spento. Ti guardo negli occhi, non mi pare sveglio. Da bambino a 10 anni già troppo sveglio. Sempre chiuso nel rione di Roma centro. Mi casa non è tu casa quindi stai attento. Entro in questa merda con la gang resta sveglio. Senza mia fratella in sonno nessuno sono zero. Parlo della merda strada che faccio sul serio. Pensi male della gang, cambia pensiero. Sto alto come un cazzo di palazzo. Pesce crudo voglio morire grasso. Moncler lucido se muoio frega un cazzo. Stammi lontana buttana voglio spazio. Sto così alto al cielo sotto i piedi. Esce un triplo 7 se tiro due dadi. Pensi di fottere la dark magari. Torni a casa pieno di mercurio cromo. Erba dentro i miei boxer polo. Ho il commissariato dentro l'iPhone. Non disturbarmi se provo a stare fatto. Fu amnesia, l'amnesia non mi ricordo un cazzo. Sto con Pyrex, Bimbo e Tony F opaco. Ci siamo solo noi e non c'è nessun altro. Sto fumando a cenere sui tonda bianchi. Fanculo mi sa che devo comprarne degli altri. Fotti in giro finisci tagliato in quattro parti. Se non parli di soldi è inutile che mi parli. Se non stai fumando cuscia è inutile che la passi. Ragazzini magri vogliono morire grassi. Hai scelto il giorno giusto per farti ammazzare gratis. Vado a letto fatto, mi sveglio sto con i crampi. Siamo diavoli crampus, cervello cocktail di gamberi. Dico a Tony di tenerti per piedi e lasciarti.